24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano la riapertura dei mercati dopo il piano di salvataggio delle banche spagnole da parte dell'Unione Europea nel weekend. Come vedremo, nonostante un'apertura improntata all'ottimismo, la giornata si è chiusa con forti timori sul futuro. L'Italia potrebbe essere il prossimo anello debole della catena, mentre le elezioni in Grecia potrebbero forzare dalla prossima settimana un'uscita di Atene dall'euro. La sinistra vince il primo round delle elezioni legislative in Francia, mentre per chiudere vi parleremo dei ritardi dell'Italia sul web rispetto agli altri paesi continentali. In apertura gli aggiornamenti sulla crisi del debito sovrano europeo. Giornata sull'otto volante per le borse con un nuovo interrogativo a fare da sfondo agli scenari peggiori. Toccherà l'Italia dopo la Spagna. Cresce il differenziale tra BTP e Bund tedeschi, ora a 470 punti, circa 30 in più rispetto a venerdì. Potrebbe venire così smentito l'ottimismo continentale. Solo ieri mattina Bruxelles sosteneva come l'accordo di sabato all'Eurogruppo sulle banche spagnole avrebbe portato benefici pure per l'Italia. Il tesoro iberico ha confermato che il paese continuerà a finanziarsi sui mercati, nonostante gli analisti abbiano già avvertito che potrebbe essere difficile ottenere rendimenti ragionevoli considerata la situazione. Di questo accordo arrivato nel weekend a mercati chiusi mancano ancora molti dettagli. Di certo si sa che tecnicamente i soldi andranno nelle casse del fondo spagnolo salvabanche e non allo Stato. Un privilegio perché così facendo Madrid mantiene la qualità del proprio debito. Però non si sa se i denari saranno erogati dal fondo salvastati o attraverso il meccanismo europeo di stabilità che entrerà in vigore tra poche settimane. La questione è più che delicata. La Germania spinge perché gli aiuti arrivino dal meccanismo europeo in modo da distribuire il peso su tutti. Diversamente, utilizzando il fondo salvastati, il bilancio di Berlino sarebbe il primo a pagarne le conseguenze. E questa non è l'unica richiesta avanzata dalla Germania, se di richiesta si può parlare. Perché se è vero che Madrid, che ha più titoli per chiedere fiducia, ha ottenuto condizioni diverse e migliori rispetto a Grecia, Irlanda e Portogallo, ed è vero che non dovrà sottostare a misure di austerità con l'unica condizione di risanare il settore finanziario, è anche vero che la Germania non intende lasciare mano libera. E così anche la Spagna dovrà vedersela con la Troica, che sorveglierà l'attuazione delle riforme. Nel frattempo la comunità finanziaria applaude alla scelta dell'Europa, con la Cina a capofila che invita a prendere altre decise misure per stabilizzare la regione nel lungo periodo. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Resta intanto aperto il fronte greco. Domenica le attesissime elezioni. La situazione è talmente incerta che, secondo l'agenzia di stampa Reuters, l'Europa starebbe pensando a un piano di emergenza per evitare il caos bancario in Grecia, qualora Atene lasciasse l'euro. Tra le misure, una limitazione dell'ammontare massimo di prelievi dai bancomat e controlli dei capitali alle frontiere. Non ci saranno altre riunioni straordinarie dell'Eurogruppo prima di quelle già in agenda per il 21 giugno a Lussemburgo, ma i contatti tra i ministri saranno intensi. Lo hanno indicato fonti europee, rispondendo all'ipotesi di nuovi incontri di emergenza. L'accordo sulla Spagna è stato intanto salutato con sollievo dal capo dello Stato italiano, Giorgio Napolitano, a Varsavia. Sentiamo. Penso che possiamo salutare come positivo l'accordo che è stato appena raggiunto per quello che riguarda la crisi bancaria in Spagna e compiacerci dell'accoglienza positiva che proprio oggi i mercati finanziari hanno riservato alla notizia di questo accordo. E la crisi dell'Eurozona fa tremare la Cina. Pechino ha lodato la decisione dell'Europa di prestare fino a 100 miliardi di euro alla Spagna per risolvere la crisi delle banche, ma ha sottolineato che si tratta di una soluzione a breve termine e che sono necessarie misure più incisive. Le norme degli Stati Uniti, Giappone e Unione Europea rischiano di essere più deboli di quelle stabilite dall'accordo internazionale di Basilea 3 per rafforzare il capitale delle banche. E quanto si legge in un rapporto stilato dal Comitato di Basilea per il prossimo G20 in Messico. E sul fronte delle borse, Milano sotto il tiro della speculazione sul finale, il FTSE MIB ha accusato un calo del 2,79%, registrando la performance peggiore d'Europa. Voltiamo ora pagina. Domenica le elezioni in Francia, con la gauche che si avvia a conquistare anche il Parlamento. Nessuna sorpresa è uscita dalle urne di quello che viene definito il terzo turno elettorale francese. Il Partito Socialista non esclude al ballottaggio di domenica prossima di poter conquistare la maggioranza assoluta. La gauche nel suo insieme, socialisti, verdi e Front de Gauche, supera il 46% contro il 34,9% della destra, UMP e alleati, e il 14% del fronte nazionale. Molto bassa l'affluenza, con una partecipazione al al voto del 57-52%, sarà comunque una settimana di trattative serrate. A destra si inneggia la mancata onda rosa socialista e si invitano gli elettori a non rassegnarsi. Tra gli eletti direttamente al primo turno c'è anche il premier Jean-Marc Ayrault, che ha lanciato un appello agli elettori affinché esaudiscano la richiesta di Hollande di avere una maggioranza ampia, solida e coerente. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A 1000 giorni dall'evento internazionale che farà di Milano una vetrina per tutta l'Europa e il mondo, il sindaco Giuliano Pisapia fa un passo indietro e lascia al premier l'incarico di commissario straordinario per l'Expo. Serve qualcuno che se ne occupi a tempo pieno, ha detto il primo cittadino di Milano. Sentiamo. La decisione del sindaco di Milano di dimettersi dalla carica di commissario straordinario dell'Expo 2015, rimettendo l'incarico al presidente del Consiglio, arriva inaspettata. E diverse sono le reazioni, da quella del governatore Formigoni, che appoggia Pisapia dicendo che il governo deve passare da parole ambigue a gesti concreti, a quella opposta di Ignazio La Russa, che vede il gesto del primo cittadino di Milano come un atto di diserzione. Considerare la diserzione come un gesto eroico, ha detto, è una costante della sinistra. La leader della CGIL Susanna Camusso approfitta delle parole di Pisapia, che chiede all'esecutivo una presenza attiva nell'Expo finora debole e carente, per ribadire la sua critica a un governo che sceglie la logica del non rispondere e del non fare. Il sindaco di Milano scrive su Facebook che la sua decisione è stata sofferta e che non si tratta di un passo indietro, ma di un modo per andare avanti con una concreta partecipazione del governo. Giorgia Mennoni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo stato di attuazione della politica di coesione, misurato al 31 maggio sulla base delle certificazioni di spesa presentate a Bruxelles, indica il raggiungimento di una percentuale di spesa pari al 25,1%, e quanto si legge in una nota dell'ufficio del ministro per la coesione territoriale. Parliamo ora di circo. Da domani fino a domenica il paese di Fossano, nel Cuneese, ospita Mirabilia, festival internazionale di teatro che comprende molti spettacoli di circo contemporaneo e teatro di strada. Il festival ha ottenuto da poco il riconoscimento dell'Unione Europea quale festival culturale europeo. Paolo Pancera ha intervistato il direttore artistico Fabrizio Gavosto. Lo scenario europeo sul circo contemporaneo in questo momento è ricchissimo e in espansione. Ad esempio in Francia non c'è stato nessun taglio e in molti altri paesi si sta cercando di mantenere questo settore, perché è un settore estremamente importante. Tant'è che, per esempio, sempre in Francia, che è la patria un po' del circo contemporaneo e è stata il paese che ha predominato, che ha dato più spazio negli ultimi anni, finché non si sono mossi anche il Belgio, la Finlandia e gli altri paesi. In Francia il 30% della programmazione teatrale è rappresentata da circo contemporaneo. Perché questo? Perché è una programmazione che riempie le sale in quasi tutto il mondo, è una programmazione che riporta in teatro i giovani, i quindicenni, i ventenni, e in questo modo li avvicina a tutta la programmazione teatrale in genere. E al Festival torinese per sentieri e remiganti è arrivato uno dei documentaristi più famosi del momento, il francese Antoine de Maximi. In Posso venire a dormire da voi si filma a caccia di ospitalità in giro per il mondo, incontrando spesso persone molto gentili. Moi, ce que j'ai constaté et que j'ai surtout beaucoup vérifié avec cette émission. Quello che ho constatato e che ho verificato con questa trasmissione è che se si arriva positivi, gentili, ottimisti, si crea una bolla di gentilezza e ottimismo che fa sì che si creino scambi con persone che sono nello stesso stato d'animo. Un incontro riuscito non sono solo due persone che entrano in contatto, sono due persone che trovano un ponte tra loro e che costruiscono questo momento che diventa una sequenza. È un momento riuscito, è una sequenza riuscita. In chiusura parliamo di Internet. Italia in coda all'utilizzo del web in Europa. Sentiamo. Secondo i dati AudiWeb pubblicati venerdì, sono 28,6 milioni gli italiani che si collegano ad Internet in un mese, ma se guardiamo ad un giorno medio, il dato scende a 14 milioni. Quindi, oltre ad esserci meno della metà della popolazione che utilizza la rete, quelli che ne fanno un uso frequente sono ancora di meno della metà. Il dato è in crescita, ma è pur sempre lontano dai paesi europei più competitivi e quindi rimane allarmante, perché sono ancora troppo pochi gli italiani che comprendono i benefici e i vantaggi che possono avere da un uso costante e frequente della rete. Ad una settimana dalla scadenza dell'acconto per la IMU, il 18 giugno, vi diamo un buon motivo per usare Internet e abbandonare la carta e la fila allo sportello. Online ci sono decine di siti che offrono calcolatori semplici e completi per calcolare la nuova tassa sulla casa, a partire dal sito internet del Sole 24 Ore, e quasi tutte le banche o l'Agenzia delle Entrate offrono la possibilità di compilare il modulo F24 e pagare direttamente da internet usando il proprio conto corrente bancario. Insomma, la tecnologia esiste e trovare i motivi per usarla non è poi così difficile. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.